ora dorma al lattiaccio per colpa di lei. Farò anche scalpore, ma il cuore mi duole lontano da lei. Non biasimatemi, io sono come voi, trainato da ciò che tira il carro più dei buoi. Io canto l'amore con semplicità, da quando la vita mi arride lei felice mi fa. Donne, vi dico addio, non piangete, no, adesso che ho smesso i panni del gran gigolò. E per la mia Minnie, io topolino, calpesto e spizzazzo sul mio orgoglio mascolino. Avevo il cuore di ghiaccio, ora dormo all'addiaccio per colpa di lei. Farò anche scalpore, ma il cuore mi duole lontano da lei. Non giudicatemi, non decido io, quel che succede forse l'ha voluto Dio. Il cuore di ghiaccio fu ghiacciolo rugantino, ma si è sciolto per sempre, adesso resta il bastoncino da usare per separarmi per sempre dalla mia dignità, che acquisa di merda sotto la suola se ne sta. Avevo il cuore di ghiaccio, ora dormo all'addiaccio per colpa di lei. Farò anche scalpore, ma il cuore mi duole lontano da lei. Un giorno ti svegli e non ci sei più, un giorno su Facebook scrivi amore, I love you. Un tempo ero un fico, ricordatemi così, mentre vi saluto col nasino nero e voi gridate ingiurie al clero. È bello questo amore, ciclici. È bello questo amore, cic cic. È bello questo amore.